Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Eccoci al consueto appuntamento insieme all'Adico di Mestre, con noi al telefono Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco, un saluto agli ascoltatori. Allora, oggi parliamo, siamo in un periodo di ponti con le varie festività, parliamo di vacanze. Sì Francesco, siamo in un periodo di ponti, fra un po' appunto si avvicinano insomma anche le vacanze estive e come sempre vogliamo ricordare un po' ai viaggiatori insomma quali sono le brutte sorprese che si possono annidare dietro appunto una vacanza, dietro una prenotazione. Allora, noi di recente, Francesca, abbiamo seguito il caso di una famiglia che vive in provincia di Treviso e che ha prenotato una splendida vacanza tramite un sito online a Santo Domingo e quindi ha prenotato tutta questa vacanza anche parecchio costosa e diciamo che alla fine la prenotazione online ha riservato tantissimi disagi, perché anzitutto il tour operator online ha prenotato 11 giorni di vacanza invece che 16 richiesti, ha prenotato per 5 persone invece che per le 6 appunto richieste, alla fine si era scordato di fare il biglietto aereo per una persona e dulcis in fundo aveva anche sbagliato il nome del capofamiglia sempre sul biglietto aereo. Una volta arrivati a destinazione, anche la struttura non era assolutamente quella prospettata per una famiglia anche abbastanza numerosa, e tanto che insomma la famiglia stessa ha dovuto trasferirsi in un altro albergo. Ecco, questa famiglia si è rivolta al nostro sportello Vacanza Informata, noi adesso interveniamo e siamo andati a chiedere al sito online un risarcimento anche per appunto per il fatto di aver rovinato la vacanza a questa famiglia, che pensava di rilassarsi, invece diciamo è tornata a casa più stressata di prima. Ecco, questo per dire cosa? Per dire che attualmente insomma le persone cominciano a preferire sempre di più le prenotazioni online, anche perché permettono magari dei risparmi superiori rispetto alla classica agenzia di viaggi, quindi insomma quando si prenota online però bisogna stare molto accorti. In realtà noi abbiamo avuto anche segnalazioni abbiamo raccontato anche durante la vostra trasmissione anche di problematiche con l'agenzia di viaggi stessa. Sì. Però è chiaro che quando si prenota online ci vogliono quei piccoli accorgimenti, e ne ricordiamo alcuni proprio per non trovarsi completamente spiazzati. E anzitutto quando si sceglie il sito, la cosa migliore, sembra banale dirlo, ma insomma è importante cercare insomma di informarsi anche tramite il passaparola su quali possono essere dei siti magari tramite i quali altri amici, altre persone familiari hanno viaggiato senza alcun problema. Fondamentale, cosa che non facciamo spesso, è quella di leggere sempre le condizioni contrattuali di ciò che si prenota, e anche importante usare siti sicuri, e qua diciamo che l'indirizzo deve essere preceduto dal classico HTTPS e sarebbe meglio insomma che potessimo individuare anche il lucchettino che ne identifica la cosiddetta affidabilità per i pagamenti. Ecco, un'altra cosa che noi suggeriamo è, prima di prenotare online una stanza o un appartamento tramite i classici siti di home sharing come Airbnb, è sempre meglio magari contattare prima i proprietari e assicurarsi anche della reale disponibilità e anche delle reali condizioni dell'appartamento, di ciò che vogliamo prenotare. Se vogliamo prenotare un volo, anche in questo caso lo facciamo spesso online, però sarebbe un buon accorgimento quello di confrontare il prezzo sul sito della compagnia aerea prima di comprarlo su quello di un'agenzia online, perché l'agenzia online potrebbe aggiungere qualche costo in più, qualche commissione in più che magari andando a prenotare direttamente tramite la compagnia non avremmo. Ecco, diciamo anche un'altra cosa Francesco, sì. Non è poi molto facile tutelarsi nei confronti di un sito online che diciamo ci ha tirato una fregatura, l'unica cosa appunto è affidarsi ad altre associazioni come Adico, perché in questo caso bisogna proprio intervenire per vie legali. Ci si augura, e questo dovrebbero essere le nuove direttive europee, che davvero nel 2018, come annunciato, la nuova direttiva europea intervenga anche per tutelare i viaggiatori che prenotano pacchetti personalizzati online. perché attualmente appunto abbiamo delle tutele solo per chi prenota tramite agenzia. Ecco, quindi per evitare brutte sorprese, la cosa ovviamente che suggeriamo è quella di stare molto attenti, di controllare tutto, le condizioni soprattutto contrattuali, la serietà del sito tramite il quale prenotiamo, perché davvero quello che siamo resi conto, insomma, di quello di cui ci rendiamo conto nella nostra attività è che tante persone fanno in vacanza e poi alla fine tornano più stressate di prima perché appunto hanno avuto la vacanza rovinata. Tramite Adico andiamo anche a chiedere, questo l'abbiamo detto più volte, lo ricordiamo perché è importante, andiamo a chiedere anche dei risarcimenti per vacanza rovinata, perché viene riconosciuto finalmente anche un risarcimento per lo stress psicofisico subito da chi è partito per rilassarsi ed è tornato più stressato di prima a causa dei disservizi provocati dall'agenzia o dalla struttura, o, insomma, certo, dei servizi subiti in vacanza. Ecco, allora ricordo che proprio internet, in questo caso attraverso il sito dell'Adico, ci può dare una mano, www.associazionedifesaconsumatori.it, dove poi trovate i contatti per chiamare l'Adico stessa. Grazie a te Gianluca, ci risentiamo tra qualche giorno. Grazie Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.